fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E benvenuti a Resto Radio Convento in compagnia di queste amiche che vengono da... Cremona. Allora, tre da Cremona, giusto? Quindi c'è mica un detto Cremona delle tre T, praticamente. Tu sei? No. nelle tre T tu cosa sei? Terrazzo. Tu sei la terrazza delle tre T? Tu cosa sei? Astenuta? Tu sei Turon? Ok, e tu sei? Io le tettazze. Colpo di scena, casualmente alla nostra sposa è capitato proprio il ruolo, quello fondamentale. ecco, ma ragazzi, corrisponde al vero o tutto un bluff? No, sì. Lasciamo il mistero. Lasciamo il mistero, tanto siamo in radio e non ci vede nessuno. Esatto. E quindi possiamo lasciare però, tranquillamente. Corrisponde, l'amica tra l'altro ti guarda in maniera audace. Tra l'altro l'amica più fan in assoluto della serata. Ma è la sorella. Ah sì, la sorella. Ah, è vero, la sorella. Come ti chiami? Non Carmen, ma? Anna Maria. Non era Carmen la sorella. Cos'è che è Anna Maria? Annalisa. Fantasia dei genitori proprio. Cioè, gli prendeva bene così. Invece quella in mezzo, la trovatella, Arianna. Così. Arianna così perché siamo parenti, quindi non c'è un anno davanti. Esatto, se fossi stata parente, quindi anche le cugine tutte con Anna iniziano? No. Ah, ok, no, metti tutta la dinastia. Da dove venite? Abbiamo detto Cremona. Allora, noi, io e mia sorella da Cremona, mentre Arianna. Provincia. Dalla provincia, così in generale, giusto, sì, per non dare. Perché no. Arianna è quella più titubante, l'ho dovuta trascinare, ecco, le ho fatto il filo tantissimo per farla entrare in radio. Alla fine, non è colpa del nome, vero? Forse sì. Ok. Tanto la sorella Anna Linda, Annalisa. Anna Maria. Mi confondo tutte queste Anne qua. Sei distrattissima. Eh? No, è che mi distraggo lì da dietro. Sì, perché praticamente qua sembra. Sono i tuoi fan accaniti proprio. Non sembra di essere tipo dentro un acquario e si attaccano i pesci ogni tanto. Tipo questo, che pesce può essere, secondo voi? Oddio, diamo un nome a questo ragazzo appiccicato al vetro. Una roba. Il pesce pulitore. Guardate come è contento. Guardate, senza aver sentito niente, è contentissimo. Stai dicendo che sono bellissima. Ha detto che sei bellissima. Ma tu leggi le labbra. Vabbè, è impossibile non le. Praticamente le ha incollate al vetro. Gli è caduto il cocktail in questo momento. Però è contento lo stesso, questo amore. Ma sei single o fidanzata? Single, vabbè, allora ancora più festa per tutti, ecco. E Anna, Arianna? Sì, anch'io. Un'altra single? Ma certo, per accompagnare invece Annalisa. Che si sposa. Che mi sposo. Con chi ti sposi? Mi sposo con Filippo. Filippo detto? Pioppo. Il Pioppo? Pioppo. Perché te l'hanno pioppato? Non l'hai scelto tu? No. Come nome? Anna Maria, Annalisa, Annalinda? Un soprannome dato da amici. Ah, gli hanno dato questo nome agli amici? Sì. Non si può spiegare? Sì. Un amico su una chat di WhatsApp, al posto che scrivere Pippo, è venuto fuori Pioppo, ha inoltrato Pioppo e da lì è diventato Pioppo. È rimasto Pioppo per è tutti. È stato un errore di battitura del cellulare. Wow, invece il vostro incontro è stato per un errore? Oh. Il nostro incontro? No, non è stato per un errore. No, ci conosciamo da sempre, ma ci siamo innamorati in una romantica gita. Da quanti anni? Da quanti anni? A Monaco del lontano 2004, quindi 15 anni fa. E quindi all'asilo eravate? Eravamo alle superiori, sì, primi anni superiori. Prima ancora che si chiamasse Pioppo addirittura. Sì. Pioppo è un soprannome recente. Quindi è 15 anni che sono fidanzati. Uè, sorella qua. Lo so. Cioè, hai detto questa non sloggia più, vabbè. Non vedevi l'ora, dici questa. Cioè, 15 anni ci ha messo. Insomma. Contrario di me. Tu sei single da 15 anni invece. No, però. Colpo di. Tra l'altro mettono altri fan, questi? Penso di sì. Ma che promesse hai fatto in giro? No, niente. Cioè, sono tutti accaniti proprio. Poi un altro fan. Anche questo? Però si deve sposare lui il 20 settembre. Questo piccolo particolare. Ma tra l'altro hanno... questo che segnale è che non capisco? Ah, un cuore. Cuore, sì. Era un cuore deformato quello che ha fatto. Facce di cuore. Sì. Comunque le ragazze di Cremona hanno spopolato stasera, eh? Cioè, sì. È la vostra prima volta? Pare di sì. Al convento sì. Sì? Sì. Per tutte? Sì. Ma è gravissimo, ragazze, dovete tornare, anzi, con cadenza settimanale quasi, perché se avete tutto questo successo... Esatto. che storia. È dura essere gnocca o... Com'è? Perché si parli me. Facciamo, com'è la vita da gnocca? Non è sempre bella. Ah, non è sempre bella? No. Qual è il lato brutto? Dimmi un lato brutto della vita da gnocca. Che fai fatica a avere degli amici maschi, perché ci provano tutti poi. Ah, cavolo, è grave. E dopo passi per quella antipatica. È vero, non ci avevo pensato questa cosa dell'amicizia. E invece la cosa bella della vita da gnocca? Beh, insomma, ma a parte che io non è che sono gnocca. E insomma, viene apprezzato. Tanti complimenti. Sono tutti complimenti. Ah, ok, ok. Dai. Arianna, cos'è bello della vita da gnocca? Esatto. Che fai? Niente. Non lo so. Non lo sai? No. Non lo so. Ma quando cammini per strada, passa quello con la macchina, con giù il finestrino, che ti fa il fischio, esiste ancora? Ma... è roba degli anni 80? No. Ah, proprio così. Ma attento su... ai cuori. Ragazzi, di tutto cuore. No, non so apprezzare, E invece la nostra Anna Chiara? Anna Lisa. Ma io ormai ho solo Anna in testa, io chiamo Anna, così vi girate sempre. E adesso che ti sposi non sarà difficile che entra la tua vita, no? Cioè, sarai sempre gnocca. Però i complimenti ti piaceranno sempre, giusto? Sì. Sì, sì, ma i complimenti mi sono sempre piaciuti, li apprezzo sempre molto volentieri. E lui, il Pioppo te li fa ancora? Sì, me li fa ancora. Ancora proprio romanticone di quelli... Sì, no, un po' meno di 15 anni fa, però me li fa ancora. Cos'è la cosa più romantica che ti ha fatto? In 15 anni? Sarà disgustata dal romanticismo. No, la cosa più romantica che mi ha fatto, mi ha scritto delle bellissime lettere d'amore. Le lettere d'amore? Scritte a mano, proprio. Ma è un ragazzo d'altri tempi? Sì. Ma che sto... Ma ragazzi, cioè... No, non è invidia questa, cioè da dire, sì, cavolo. No, cioè, invidia buona, Cioè... Cosa? Sì. No, cavoli, non si trovano più ragazzi così. Cioè, ne hai trovati stasera 20 in stock, ma di qualità non ce n'è nessuno. Beh, le lettere le hanno scritte anche a me, però. Ah, davvero? Certo. Con la presente io sottoscritto, desidero farle il complimento. Così lettere commerciali. Però non le apprezzo io. No? Ah, tu sei più per... per cosa? Meno romanticismo, più concreti. Le sorelle opposto siete, eh? Una è Anna e l'altra è Laura, Chiara. Cioè il pezzo finale del nome praticamente. Giusto? No. Arianna, a te invece piace che ti fanno il filo, giusto? Sì, dai, sì. Se col nome che hai non puoi non farti fare il filo. Giusto, giusto. Sono coerente con il mio nome. Sei coerente col tuo nome, giustamente. Esatto. Ragazzi, se volete provarci con Arianna, fatele il filo proprio. Esatto. Ecco, purtroppo non ci ascolto. Eccolo ancora più cicato. Sì, quello non molla. Il pesce pulitore ha le idee chiare, ha detto. Praticamente lui fa la pesca quella con la rete gigante. La prima che entra nella rete va bene, ecco. Ci sta anche indicando. Sono belli questi momenti perché da casa non ci vedono, non ci ascoltano, ma secondo me dalle nostre descrizioni. Capiscono, ecco, stanno capendo tutti che abbiamo una marea di ragazzi appiccicato al vetro che stanno facendo simboli strani nei vostri confronti. Benissimo, ok, va bene, è stato bello conoscerci, abbiamo parlato per 9 minuti quasi, non vi siete accorte, vero? No. Arianna non voleva entrare, tra l'altro, è vero. Una cosa pazzesca. Ok, allora salutiamo il pubblico a casa, vai. Ciao a tutti. E di chi sei, che almeno capiscono? Ah, sono Anna Maria, ovviamente. Quella... sorella single. La sorella single, quella dei fatti concreti, esatto. E poco romanticismo. Esatto. Ok, poi... Ciao, buona serata, Arianna. Quella... Quella del filo, quella che vuole che gli venga fatto il filo. Ecco, sono i consigli per gli spasimanti. E poi... E poi auguro una buona serata a tutti gli ascoltatori. Da Anna Lisa, la futura sposa. La futura sposa, quindi qua non si può fare niente. È già del Pioppo, se l'ha pioppata lui. Quindi tanti saluti da Cremona. Ciao.